Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Nuovamente su Radio 24 con Voci d'impresa, stiamo parlando della storia del gruppo Snaidero. Il 2009 è l'anno della crisi, nonostante le ultime stime parlino di una ripresa timida dal 2010. Come stanno però vivendo le grandi aziende il periodo della crisi? Al di là dei rimedi studiati dal governo e dal ricorso a misure straordinarie per gli imprenditori, l'ottimismo è d'obbligo, come sottolinea Edi Snaidero. Anzi, in alcuni casi proprio i momenti difficili possono essere un'opportunità per migliorare prodotti e servizi e, perché no, anche per diventare più competitivi. Personalmente credo che un imprenditore che non è ottimista ha sbagliato mestiere. È proprio il vero, la vera responsabilità dell'imprenditore è saper trovare le soluzioni nei momenti di difficoltà, nei momenti di crescita, nei momenti di inizio della vita di un'impresa. Io credo che questa crisi sia una grandissima opportunità, un'opportunità di guardarsi dentro e di capire come sta cambiando la società, come stanno cambiando le abitudini dei consumatori, dei clienti, per cambiare prodotti e servizi, ma anche per migliorare prodotti e servizi che già si stanno facendo. Oggi c'è un imprenditore ha un grandissimo vantaggio, che è quello di poter parlare all'esterno, ma soprattutto anche all'interno dell'azienda, di qualsiasi argomento. Non ci sono più tabù, non ci sono più resistenze al cambiamento che magari fino a un anno fa ci sarebbero state. L'Italia, tuttavia, grazie ai propri asset, creatività, propensione all'innovazione, la cultura, potrebbe superare l'attuale crisi economica più rapidamente e possibilmente limitando i danni. Ne è convinto il numero uno di Snaidero, per il quale un ruolo importante viene giocato anche dalle nuove tecnologie. Siamo un paese che non parte dal fatto di avere delle risorse diciamo materiali di base che ci diano un vantaggio competitivo, ma credo che comunque oggi questo sia in ogni caso non un vantaggio competitivo. Siamo nell'economia della conoscenza, siamo nell'economia della cultura, siamo nell'economia della rete, del web 2.0. ci sono dell'intelligenza oggi permette anche un'impresa che sta in alta montagna di diventare impresa e fare impresa, anche se non è nel mezzo delle vie di comunicazione o se non è centrale dal punto di vista della logistica. Quindi credo che mai come oggi l'Italia, che basa larga parte della sua capacità sull'intelligenza, la creatività, la capacità di fare prodotti belli, ad esempio, non parlo solo di design ma anche della cultura del bello che c'è in Italia, credo che questi sono valori che vanno assolutamente utilizzati per uscire da questa crisi con maggiore competitività. Dopo il collasso dell'economia americana, da più parti è stato sottolineato che un ruolo da protagonista lo giocano le economie del vecchio continente, soprattutto quelle meno toccate dall'onda lunga dei mutui subprime e di altri prodotti finanziari instabili, diciamo così. Per Edi Snaidero la storia e la cultura dei paesi europei hanno un peso determinante, un peso specifico importante nei nuovi equilibri dell'economia attuale. Credo che mai come in questo momento non è la potenza o la dimensione o la capacità finanziaria che può farci uscire da questa crisi. Credo che da questa crisi si esce soprattutto con la cultura, con la capacità di innovare, con la capacità di capire come la società sta cambiando, e credo che l'Europa in questo possa avere un grande vantaggio, che la sua storia, la sua cultura, il suo spessore anche morale, perché comunque credo che il mercato premierà anche chi saprà fare scelte sostenibili, etiche, chi saprà inquinare meno, consumare meno. Credo che la cultura che da millenni abbiamo in Europa possa essere un bel vantaggio competitivo. Produrre con un minore impatto nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. È quella che potremmo chiamare la green line del gruppo Schneider, che da tempo si sta impegnando per una politica industriale non aggressiva che appunto sappia rispettare l'ambiente. Il gruppo ha anche ricevuto la certificazione per la responsabilità sociale. E di Schneider però appare critico nei confronti delle politiche ambientaliste dei governi europei ed apprezza invece la svolta dell'amministrazione Obama in tal senso. Credo che sia un tema su cui sta puntando l'amministrazione americana in modo massiccio. Credo che l'Europa dovrà per forza di cose perlomeno andare in parallelo con quello che fanno gli Stati Uniti, anche perché poi questa grande volontà crea anche grandi opportunità e grandi nuove tecnologie che cambiano i mercati, quindi credo che dovremmo assolutamente dedicare più attenzione anche a questo. Però ripeto, è la nostra cultura che può, proprio perché questi sono temi che diventano importanti per tutti, la nostra cultura può fare la differenza anche in questo. Quindi anche se loro sono partiti magari con un po' più di determinazione, però credo che l'Europa possa recuperare questo gap. Poco fa abbiamo fatto un accenno all'importanza delle nuove tecnologie e comunicazioni per il rilancio dell'economia e quantomeno per evitare di perdere il treno della innovazione. Ma com'è il rapporto tra Eddie Schneider e le nuove tecnologie? È un rapporto di passione? È un rapporto ostico? Oppure cos'altro? Sono assolutamente un appassionato anche per motivi anche per motivi professionali, perché comunque da parecchi anni abbiamo informatizzato l'azienda, il gruppo, e non solamente all'interno dell'azienda, ma abbiamo creato una rete di collegamento fra tutta la rete vendita, quindi i nostri punti vendita, l'azienda e i nostri partner fornitori. Da parecchi anni abbiamo portali che si occupano di trasmettere le informazioni, di eliminare errori piuttosto che di velocizzare la realizzazione dei prodotti. Lo abbiamo ascoltato prima, per uscire dalla crisi c'è bisogno anche di ottimismo e, nonostante le difficoltà del momento, secondo Eddie Schneider, anche oggi potrebbe nascere un'azienda come la sua. Ma è lo stesso anche per un giovane che non ha grandi risorse, oppure una famiglia importante, una famiglia di imprenditori alle spalle. Basta soltanto una buona idea e soprattutto come fare, come reperire i fondi necessari per mettere in piedi un'impresa. Anche in questo caso il messaggio di Schneider è puntare sulle idee, sulle buone idee e sull'ottimismo. La prima cosa, bisogna che abbia una buona idea. Se crede in questa idea, vuol dire che trova anche gente che lo segue nel realizzare questa idea. I soldi, secondo me, sono l'ultimo dei problemi quando le idee sono buone e c'è la condivisione di queste idee. Naturalmente poi ci vuole l'impegno e la volontà di realizzarle queste idee, però di non aver paura di non trovare le risorse, perché questo è l'ultimo dei problemi. Schneider non vuol dire soltanto cucine. La famiglia da anni è impegnata nello sport ai massimi livelli, nello sport professionistico. La Schneider Udine, formazione di basket del capoluogo friulano, è stata nell'ultimo decennio croce e delizia di Eddie Schneider, ma diciamo la verità, un po' di tutta la famiglia. Un rapporto di passione iniziato molti anni fa. Beh, è nato quasi casualmente, credo negli anni, alla fine degli anni 60, e poi è diventata una passione forte, travolgente, globalizzante. Mio padre ha fatto il presidente della squadra di Udine per una quindicina d'anni, poi naturalmente ci sono i cicli, uno poi lascia fare anche ad altri imprenditori, ad altri appassionati la responsabilità di portare avanti il progetto. Io ho ripreso 10 anni fa e quindi ci sono stati due periodi, insomma, sicuramente questa passione mi è stata trasmessa anche da mio padre. Bisogna distinguere fra sport e sport. Io sono appassionato di uno sport che finora non è stato toccato da nessuno scandalo, anche perché, così come altri sport simili come la pallavolo, il rugby, sono sport che sono costosi, ma non sono generatori di risorse. Quindi chi si avvicina a questo sport lo fa veramente per passione, ci mette il cuore, ci mette i soldi e non lo fa certamente per ottenere dei risultati economici, mentre in altri sport gli interessi economici sono di ordine di grandezza superiori a quelli dello sport che piace a me. Purtroppo dico perché questo vuol dire che è anche un impegno economico per chi se ne occupa, però anche con la consapevolezza che è uno sport pulito, che è molto dinamico, che ha i suoi aspetti, diciamo, per cui la passione può essere veramente travolgente. Una passione travolgente e disinteressata. Ma spesso la sola passione non basta. Con una lettera lo scorso maggio Eddie Snyder ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della squadra di basket di Udine, affermando che per sostenere un progetto sportivo è necessaria molta energia, un'energia che continua ancora nella lettera, sta scemando e che in pratica ha aperto le porte ad altri sostenitori del sodalizio arancione. Nell'ultimo capoverso della lettera però si legge che l'amore per il basket da parte della famiglia Snyder non è terminato assolutamente, si è chiuso soltanto un capitolo. E chissà che per Snyder non ci sia in futuro un terzo tempo nel basket friulano e nazionale. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci di Impresa. In regia Alessandro Chiappini, da Vanni Truppi, l'augurio di una buona giornata.